Buonasera a tutti, sono Piccolini, assessore alla cultura. Ringrazio tutti per la partecipazione, ma soprattutto dopo una giornata così pesante ringrazio Mike Patton, ringrazio Roy Paci e il suo gruppo, ringrazio tutta la Toscanini e tutti gli operai che hanno lavorato in condizioni al limite. Sicuramente sarà una grande serata, Salso Maggiore vuole grandi serate e vedrete che sicuramente ce ne saranno altre. Grazie per il vostro calore e per la vostra presenza. Buona serata. Buonasera, Salso Maggiore. Mike Patton, Mondo Cane, arrangiamenti e interpretazioni di canzoni italiane dall'età d'oro degli anni 50 e 60. Per voce, complesso, piccolo coro e orchestra, Orchestra Toscanini. Le voci del coro, i corali di Torino, Roberta Bacciolo e Elena Bacciolo, Roberta Magnetti, Silvano Bergatta, tutti più grandi. Il complesso, Vincenzo Vasi, Alessandro Assa Stefana, Riccardo Mori, Antonio Bordini, Patrizio Aglione, Gesù Minari, Henry, Roy Paci. Aldo Fusillo, direttore, Mike Patton, Mondo Cane. Non è il mio libero.